Terra in vista. Le Olimpiadi spiegate a mio figlio. Bentornati a Terra in vista, le Olimpiadi spiegate a mio figlio da Federico Taddia e Telmo Piovani. Ciao Telmo. Ciao, eccoci. Un'estate intera, ogni puntata una parola e continueremo, anche se oggi le Olimpiadi termineranno, ci sarà la cerimonia di chiusura, ma non per noi, questo è importante. Poi c'erano le Paralimpiadi. E certo che racconteremo in una delle prossime puntate. La parola di oggi è una parola tosta, perché abbiamo scelto la parola sconfitta. Un po' per sdrammatizzare, anche forse per drammatizzare le Olimpiadi. E per entrarci dentro e capire cosa vuol dire. Capiremo cos'è la sconfitta, capiremo anche come riprendersi da una sconfitta, ma soprattutto capiremo cosa significa sconfitta, e lo facciamo da subito. Abbiamo chiesto infatti ai nostri giovani ascoltatori di dirci la loro su questa parola. Yuhu! Sconfitta è che abbiamo perso contro le altre squadre, ma non fa niente. E quando perdi una partita è bello di essere felice. Sconfitta è quando perdi. Quando perdo a qualche gioco e mi sento un po' triste, un po' arrabbiata e anche un po' felice, perché a dir la verità è un gioco. Quando perdi? Una sconfitta è perdere un obiettivo. Quando perdo una partita, a carte, a scopa, qualunque cosa. Quando perdo una gara. La sconfitta è quando uno perde, però non è che si arrabbia, ma l'accetta. Quando perdo, però non fa niente perché l'unica cosa è partecipare. Telmo, non c'è nulla da aggiungere, hanno già detto tutto loro, direi. Sì, sì. Si perde, dà fastidio, ma non fa niente. Non fa bravi niente. Sti ragazzi, hanno capito, sanno affrontare la sconfitta. Non è sempre così, gli sportivi non sono sempre così. Ma poi, insomma, è facile da dire, un po' meno da vivere. Che cos'è la sconfitta, Telmo? Ma guarda, io ti proporrei di capire il significato di questa parola leggendo, rileggendo la carta olimpica, perché non si ricorda mai, visto che oggi finiscono. C'è un documento proprio. Sì. Venne redatto la prima volta nel 1908, proprio con de Coubertin ancora che partecipava, ha scritto fondamentalmente lui, ed è la carta fondamentale che ancora oggi regola le Olimpiadi, ma che descrive anche l'olimpismo, cioè la filosofia di vita che c'è dietro le Olimpiadi. Vuol dire lo sport come cultura, come educazione, la gioia della sfida, per esempio, dice che è un valore fondamentale, la dignità, l'uguaglianza di tutti quelli che partecipano. E se tu la leggi, ci sono tre significati molto belli di sconfitta. Uno, vabbè, è semplice, l'hanno già detto i bambini. Sport vuol dire educazione del corpo, della volontà e della mente. Quindi essere sconfitti vuol dire che tu perdi sul campo, onorevolmente, che c'è stato qualcuno più bravo di te fisicamente, oppure nella volontà, oppure mentalmente. E allora succede che vinci, per esempio, la medaglia di legno, che è il quarto posto, no? Quelli che vincono, che perdono la sfida per il terzo posto, medaglia di legno. Poi c'è un secondo significato, però, interessante. Nella carta c'è scritto che l'olimpismo vuol dire correttezza e lealtà. Sì. Quindi vuol dire che uno è sconfitto, e questa è una sconfitta brutta, quando ha commesso delle scorrettezze, come il doping, per esempio, che per cui tu sei espulso, non puoi partecipare. Quindi la seconda sconfitta è essere scorretti. E già nell'antichità, abbiamo anche parlato, c'erano già le scorrettezze, i brogli, gli stratagemmi, no? Che ti facevano perdere onore e reputazione. E poi la cosa incredibile, strana, nella carta c'è un terzo significato di sconfitta. Nella carta c'è scritto che praticare uno sport è un diritto umano che non può essere impedito a nessuno, l'esercizio del quale non può essere impedito. Quindi non possono esserci discriminazioni, chiunque può partecipare. Quindi se ci pensi bene, la più grave sconfitta per le Olimpiadi è se un atleta non è libero di praticare la sua disciplina a causa di guerre, discriminazioni di qualsiasi tipo. Quella è la sconfitta peggiore. Beh, insomma, una carta olimpica profonda, vera, autentica. Telmo, ti chiedo di spostarti un attimo dall'olimpismo all'evoluzionismo, che è un altro tuo campo. In natura esiste la sconfitta. I dinosauri, per esempio, sono stati sconfitti? Ma secondo me no, nel senso che uno pensa, uno si è estinto perché se l'hai meritato, ha perso nella lotta per la sopravvivenza, che è un po' uno stereotipo che sempre associamo all'evoluzione, quindi se l'è meritato, era inadeguato. In realtà i dinosauri ne hanno subite di tutti i colori, si sono trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato, è successo di tutto attorno a loro e non ce l'hanno fatta. E chi è subentrato loro non è perché era più forte, noi mammiferi, ma semplicemente perché ci siamo riusciti a riadattare meglio, più, in modo più flessibile, a un cambiamento del contesto. E poi ricordiamoci che i dinosauri per il rotto della cuffia ce l'hanno fatta, perché una piccola famiglia ha resistito, ce l'ha fatta, ha vinto e sono diventati gli uccelli. Il dodo invece è uno sconfitto. Il dodo è un uccello, quindi se vuoi un discendente di dinosauri, ma anche lui direi di no, nel senso che veramente lui se ne stava benissimo sulla sua isola, poi sono arrivati degli invasori che hanno portato specie invasive e gli hanno mangiato tutte le uova e non ce l'ha fatta, quindi abbandoniamo lo stereotipo del povero dodo che se l'è meritata. Parleremo ancora di animali, lo faremo con le Animaliadi, il nostro podio che decretiamo in ogni puntata, e poi la mia rubrica preferita, Non batter la fiaccola. Vi stiamo raccontando le Olimpiadi del passato attraverso aneddoti, racconti e avvenimenti bizzarri. Adesso ci ascoltiamo quindi un Non batter la fiaccola, ci fermiamo per il traffico e poi torniamo qua con le vostre domande. Questa è Terra in Vista. Non batter la fiaccola, curiosità a cinque cerchi. Testa o croce? È capitato anche questo alle Olimpiadi. Siamo ad Anversa, 1920. Nella prova di sollevamento pesi, categoria pesi medi, l'italiano Pietro Bianchi e lo svedese Pettersson si classificano entrambi secondi con 237,5 kg. Si tenta la carta dello spareggio, ma anche in questo caso i risultati sono completamente identici. Non potendo proseguire all'infinito, i giudici decidono una cosa davvero insolita se si pensa alla rigidità dei regolamenti olimpici odierni. Per la prima ed unica volta nella storia delle Olimpiadi, il secondo posto viene assegnato mediante lancio di una moneta. Testa all'italiano, croce lo svedese. Come va a finire? Esce testa e vinciamo noi! Dalla Brexit all'immigrazione dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione. Al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto tutti i giorni alle 16, qui su Radio 24. Terra in Vista. Terra in Vista, quindi eccoci qua, è il momento delle piccole domande, perché fatte dai nostri giovani ascoltatori, e delle grandi risposte. Partiamo quindi con il primo quesito di oggi. Yuhu! Quando si perde è sempre un fallimento? Beh sì, in una puntata dedicata alla sconfitta, la entriamo parola, nel vivo, sì, si può imparare qualcosa dalla sconfitta. La parola fallimento, che è una parola pesante. Per capire se è sempre un fallimento abbiamo invitato un esperto di Olimpiadi, è autore del libro Olimpiche, storie immortali in cinque cerchi, edizioni della Sera, un giornalista professionista. Diamo il benvenuto a Luca Pelosi. Ciao Luca. Ciao, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. E Luca, giornalista ma anche sportivo? Cioè nel senso, sì, che fai, pratichi sport? Sì, pratico, sono appassionato di maratona, ne ho corse già più di 20 e insomma ci stiamo allenando per la prossima. E insomma la maratona non è mai un fallimento, cioè una volta che uno arriva al traguardo, qualsiasi sia l'ordine d'arrivo, credo sia sempre un successo, vero? È sempre una conquista, sì. Allora Luca, quando si perde è sempre un fallimento o in quella sconfitta si può trovare una briciola di vittoria? No, quando si perde secondo me non bisognerebbe mai pensare al fallimento, perché io credo che la sconfitta sia soprattutto una opportunità, non un fallimento. Pensate che ad esempio in alcune discipline individuali, mi viene in mente il nuoto, ci sono degli allenatori che quando hanno un atleta molto forte in alcuni stili scelgono di farlo gareggiare appositamente in altri stili a loro meno congeniali, proprio per farli perdere, affinché loro, che magari vincono spesso perché sono molto dotati, trovino anche delle sconfitte da cui poter imparare. Imparare cosa? Imparare quello che secondo me deve essere il vero senso dello sport, che non è necessariamente vincere, che deve essere però migliorarsi. Migliorarsi come atleta, che poi di conseguenza diventa un miglioramento anche come persona, perché si imparano tante cose, perché la vera sconfitta, il vero fallo non è quello di arrivare dopo a qualcun altro, di essere battuti da qualcun altro, la vera sconfitta è quella di non aver dato il meglio di se stessi. Certo. Queste sono cose che si possono imparare sia, secondo me, facendo sport, sia anche studiandolo, guardandolo e cercando di cogliere tutto quello che lo sport ha da dirci da questo punto di vista, e che io nel mio piccolo ho cercato anche di far uscire dalle storie del mio libro, dove ci sono storie sia di atleti che vincono, sia di atleti che perdono. Tra l'altro hai fatto l'esempio proprio del nuoto, dove sovente capita che magari l'atleta fa un record, batte il proprio record nazionale, però non sale sul podio perché c'è stato comunque qualcuno più veloce di te, quindi è una sorta di trionfo perché hai battuto un tuo limite, ma di sconfitta perché non hai raggiunto la medaglia. Storie mortali nei cinque cerchi, storie di vittorie, storie di sconfitte significative. Quindi ci vuoi fare qualche esempio? Sì, ve ne posso fare più di uno. Per esempio mi viene in mente la storia della finale del torneo di judo a Los Angeles 1984, dove un atleta iraniano affronta un atleta giapponese che era il super favorito, il più forte di tutti, e che però in quel momento era infortunato ad una gamba. Allora l'atleta iraniano sceglie di non attaccarlo sulla gamba infortunata e finisce col perdere questa finale. Però io a questo punto, ecco, pongo anche questo dubbio: una eventuale vittoria approfittando dell'infortunio dell'avversario sarebbe stata una vittoria? E chissà come si sarebbero comportati. Questa sconfitta è da considerare una sconfitta? Oppure è semplicemente appunto un atleta, questo iraniano, che, come dicevo prima, magari ha colto il senso dello sport, che è quello di migliorarsi come atleta e come persona, perché ha scelto comunque di non approfittare del vantaggio che gli veniva dalla sfortuna dell'avversario, è andato incontro alla sconfitta. Ma io mi chiedo, la si può considerare veramente una sconfitta? Ne abbiamo degli esempi anche in casa nostra, in Italia. Niccolò Capriani stesso racconta di aver imparato a superare le sue paure dopo aver visto, come reagì un tiratore americano, Matt Immons, che era fortissimo, ma che per tre volte ha perso la medaglia d'oro all'ultimo tiro. Ma lui ha imparato proprio da come reagì questo atleta americano alla sconfitta, e è diventato più forte addirittura lui. Quindi, anche per quello dicevo prima, anche semplicemente osservando tutte le cose che lo sport ha da dire e ha da raccontare, si possono veramente imparare tante cose. Io penso che alla fine spesso lo sport sia sottovalutato da tanti punti di vista. In realtà lo sport ti insegna a gestire due cose che capiteranno sempre nelle vite delle persone, cioè vincere e perdere, e da questo non si può scappare. Quindi in altri termini, diciamo che lo sport veramente insegna a vivere. Luca, però ci sono alcune storie che tu racconti che secondo me invece sono delle sconfitte che diventano decisamente delle vittorie. Per esempio quella del velista che sta per vincere l'oro ma decide di fermarsi per salvare due concorrenti che sono in difficoltà, che rischiano di annegare. Questa è una storia che anche appunto dice molto anche sulla magia delle Olimpiadi. Lui poteva vincere già a Mosca 1980, era il favorito, ma a causa del boicottaggio, visto che lui è canadese, boicottaggio del blocco occidentale, non andò a Mosca. Non poté partecipare anche nell'84 perché era impegnato su altri fronti. Nell'88 aveva la sua grande occasione, era in testa, solo che a un certo punto durante una regata vede nel campo di regata accanto, dove c'è il 470, che quindi si va in coppia, due atleti coreani, uno casca, l'altro nel tentativo di ritirarlo su sulla barca casca anche lui, prende il panico entrambi e rischiamo di affogare. Lui ha fatto una deviazione perché i soccorsi erano in ritardo, li ha salvati, letteralmente ha salvato la vita, li ha rimessi sulla barca aspettando i soccorsi, poi si è rimesso a regatare e a causa di questa perdita di tempo non ha vinto quella medaglia d'oro che altrimenti avrebbe vinto. Questa storia però inizia molti anni prima, perché lui viveva da piccolo vicino a un grande lago in Canada, e quando iniziò ad andare in barca a 5-6 anni, lui cade dalla barca, rischiò di affogare e fu salvato da una persona che veniva da una barca vicino. Quindi tanti anni dopo, attraverso l'Olimpiade, attraverso lo sport, come dire, gli ha restituito quel qualcosa che gli era stato dato quando era piccolo. I cinque cerchi che si chiudono, ecco, diciamo che si è chiuso un cerchio, esatto, esatto, ne aperti altri quattro. Grazie davvero a Luca Pelosi, sfogliate davvero questo libro, sfogliatelo con i vostri genitori, perché tante storie emozionanti e assolutamente stracolme di spirito olimpico, olimpiche, storie immortali in cinque cerchi. Ciao Luca, grazie ancora. Ciao, ciao, grazie a voi. Non batter la fiaccola. Curiosità a cinque cerchi. Si può credere ai sogni premonitori prima di disputare un'Olimpiade? Parrebbe proprio di sì. Siamo a Seul, 1988, la notte precedente la finale dei 10.000 di atletica leggera. Il nostro connazionale Salvatore Antibo fa un sogno. Si sarebbe classificato secondo e avrebbe vinto la medaglia d'argento. Una volta sveglio, si ricorda però solo il proprio piazzamento, perché il sogno nulla gli aveva svelato circa il nome del vincitore della medaglia d'oro. Così fu. L'indomani, Antibo arrivò secondo, sconfitto dal marocchino Boutayed, che fu la vera e propria rivelazione della gara. E dopo le curiosità olimpiche di non battere la fiaccola, al momento di Telmo Piovani con le sue storie, storie di sconfitta oggi. Ma abbiamo appena sentito adesso la parola boicottaggio, che non è proprio semplicissima. Vuol dire quando una nazione decide di non far partecipare i suoi atleti alle Olimpiadi, oppure può succedere che non viene invitato, perché si partecipa se si viene invitati. E questa, secondo me, è una delle versioni della sconfitta. Perché a parte che a me non è mai piaciuto molto, no? Se tu ce l'hai con qualcuno, vai e discuti con qualcuno, non ti astieni. Però le Olimpiadi sono caratterizzate da una lunghissima storia di boicottaggi che ti raccontano, se vuoi, tutta la storia del Novecento. Perché già si comincia dopo la Prima Guerra Mondiale, non vengono invitate le nazioni sconfitte. E quindi non ci sono la Germania, l'Austria, l'Ungheria, la Bulgaria, anche se de Coubertin non era d'accordo. Perché secondo lui l'ostracismo, cioè impedire proprio a qualcuno di partecipare, non era nello spirito olimpico, però succede. Poi ci sono le Olimpiadi di Berlino del 1936, quelle di Hitler, curiosità, lì nessuno le boicotta, hanno partecipato tutti a quelle lì. Invece dopo la Seconda Guerra Mondiale di nuovo gli sconfitti non vengono invitati, quindi non partecipano la Germania, il Giappone. L'Italia invece viene perdonata e partecipa subito anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Poi a Helsinki nel 1952 partecipa per la prima volta l'Unione Sovietica, che fino a quel momento aveva deciso di fare le sue Olimpiadi in casa, le Spartiachiadi, che però non avevano mai avuto un grande successo. Poi c'è Melbourne nel 1956, anche qui questa è forse la più strana, perché la Cina non va perché c'è Taiwan, sì. Un sacco di nazioni non vanno perché c'è Israele, c'era appena stata la guerra del Sinai, e quindi l'Egitto, per esempio, il Libano e l'Iraq non ci vanno. Ma era anche stato subito dopo l'invasione dei russi in Ungheria, quindi un sacco di nazioni non ci vanno perché ci sono i russi. Invece gli ungheresi ci vanno e c'è la mitica sfida a pallanuoto tra URSS e Ungheria, e vince l'Ungheria 4-0, una battaglia fantastica. E poi le cose vanno ancora avanti, dal 64 in poi non viene mai più invitata il Sudafrica a causa del razzismo e dell'apartheid, viene riammessa soltanto molto tempo dopo, nel 92. E poi le più famose forse boicottaggio è a Mosca nell'80, appunto l'abbiamo appena sentito, non ci vanno gli americani a causa dell'invasione dell'Afghanistan, e i russi restituiscono lo sgarbo e non vanno a quella successiva di Los Angeles nell'84. Poi per fortuna però nell'89 cade il muro, e dal 92 Barcellona queste storie di boicottaggi sono un po' finite, e infatti le Olimpiadi come quelle in corso adesso sono popolate da più di 100 nazioni. Il boicottaggio quindi come sconfitta, e con queste storie entriamo nel mondo degli animali, perché è il momento degli animaliadi. Animaliadi, record bestiali a cinque cerchi. Parconaturaviva.it è il sito del Parco Natura Viva di Pastrengo, siamo in provincia di Verona, e lì la responsabile settore ricerca e conservazione, Caterina Spiezio, coi suoi cronometri, i suoi metri, misura i record degli animali, che poi racconta a noi. Oddio, no, tutti questi animali non sono proprio lì, però ci piace immaginarlo. Ciao Caterina. Ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. In ogni puntata una disciplina diversa, andiamo ad assegnare le nostre medaglie. Oggi che gara giochiamo? Proviamo con la mira migliore, o meglio, delle tecniche particolari per una buona mira. Eh certo, perché comunque anche avere mira, no? Pensiamo al tiro al piattello, esatto, o l'arco, insomma, sono sì, discipline assolutamente olimpiche. Medaglia di bronzo a chi? Medaglia di bronzo va a questi pulcini dell'uccello che si chiama fulmaro, che è un uccello che ha le sembianze simili di un gabbiano, che devono difendersi dai predatori e non hanno la possibilità ovviamente di volare via dal nido, quindi usano questo proiettile al vomito, ah, nel senso che sì, riescono a secernere un particolare secreto oleoso di colore arancione, e quando vedono un predatore avvicinarsi, che quindi sta volando in prossimità del nido, lanciano proprio come uno sputo, insomma, questo contenuto oleoso, che ha la caratteristica di essere particolarmente denso, di appiccicare proprio le varie penne in modo tale che il predatore non riesce poi più a volare in maniera adeguata e quindi può non far altro che andare via, andare da qualche parte e ripulirsi da questo vomito che gli è stato sputato addosso dai pulcini. Il tiro allo sputo, una nuova disciplina zoologica. Fantastico, okay, fantastico, grandioso. Medaglia d'argento invece. Va al pesce anche lui uno sputatore d'eccellenza, ed è anche chiamato Robin Hood del mare perché ha, non per le sue buone intenzioni ma per la sua buona tecnica, si nutre principalmente di insetti che quindi stanno sulla superficie d'acqua, comunque sono insetti terrestri, e sputa loro dell'acqua, quindi ha questo sputo che riesce a superare un metro di distanza, arrivando quasi a 2 metri, fa cadere poi la preda in acqua e quindi la stordisce, la fa cadere in acqua, e poi è più facile ovviamente da recuperare. Bombe, gavettoni di fatto. La preda non capisce cosa è successo. Stordisce, okay, esatto. Fantastico, anche questo è il momento di salire sul gradino più alto del podio. Medaglia d'oro a chi? Va al cobra sputatore di nuovo, che però questa volta, come per i pulcini, lo usa come difesa. Ed è molto particolare la tecnica che ha, riesce a colpire comunque a distanze che vanno sicuramente oltre il metro, e addirittura oltre 2 metri, arriva a 2,5 metri. Con una velocità che è simile a quella che fanno le pistole d'acqua come getto, ma la particolarità è la precisione e la mira di questi serpenti, perché stanno a guardare l'aggressore, loro si muovono e quindi di conseguenza vedono e provano a osservare come si muove l'aggressore, dopodiché quando sputano il veleno sanno esattamente dopo 200 millisecondi dove si troverà il bersaglio e quindi lo colpiscono direttamente negli occhi. Quindi hanno una capacità altissima, in particolare il cobra del Mozambico che non sbaglia neanche una volta, quindi 10 volte su 10 colpisce precisamente il bersaglio negli occhi. Quindi tenetelo lontano da Rio, perché insomma avrebbe veramente battuto qualsiasi altro atleta. Grazie davvero, anche questo insomma sono sempre sorprendenti gli animali che ci presenti, sì, che ci racconti e che metti in gara per noi. Un podio di sputatori. È vero. Grazie Caterina, alla prossima puntata. Grazie a voi. ParcoNaturaViva.it, come sempre, vi ricordo il sito. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua, con Terra in Vista. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Pronto mamma? Ti devo dire una cosa? Vabbè, per piacere, tenga pentolo sul fuoco, fa presto. Ti volevo dire che sto facendo un programma su Radio 24, io e Filippo Roma, si chiama I Fuori Posto. Ma dove si vede? Ehi, mamma, ma è la radio, non si vede, si sente. Comunque, siamo tutti i giorni, io e Filippo, alle 10 su Radio 24. Ma va bene, se ho tempo lo dico pure a papà, è Radio 44. Ehi mamma, ma qual è Radio 44? Radio 24, I Fuori Posto. Sì, mo ti devo proprio salutare. T'ho detto, tenga pentolo sul fuoco. Vabbè, mamma, che ti devo dire? Grazie per l'interesse, ti voglio bene anch'io. I Fuori Posto con Umberto Alezio e Filippo Roma. Da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Terra in vista. Terra in vista, le Olimpiadi spiegate a mio figlio Federico Taddia, Telmo Pievani. Ogni puntata una parola in questo viaggio estivo a cinque cerchi. La parola di oggi è la parola sconfitta. Nello sport, nella gara, c'è chi vince ma c'è anche chi perde. E poi ci sono le domande dei nostri giovani ascoltatori a cui tentiamo di dare una risposta. Domande tipo questa. Come ci si riprende da una sconfitta? Certo. Perché perdere fa male, obiettivamente. Perdere. Si può imparare, però fa male, no? Sì, perché con che vinci, fastidio, esulti, c'è l'abbraccio, però quando a fianco dell'esultanza c'è sempre qualche faccia triste. E lì cosa succede? Lì bisogna riprendersi, ci sono gli strumenti, perché fa comunque parte del gioco. E per capire come riprendersi abbiamo invitato un esperto, è un medico psicanalista e anche, forse soprattutto, scrittore per ragazzi. Ricordiamo Io sono zero del Castoro, romanzo col quale ha vinto il premio Bancarellino proprio quest'anno. Diamo il benvenuto a Luigi Ballerini. Ciao Luigi. Ciao. Ciao, ciao, buongiorno. Allora, ci si riprende da una sconfitta intanto? Ah, certo che ci si riprende, assolutamente, senza... Bisogna riprendersi. Tra l'altro ricordiamo che insomma una sconfitta è sì una sconfitta sportiva, può essere anche un brutto voto a scuola, può essere la tua fidanzatina o il tuo fidanzatino che ti saluta. Insomma, le sconfitte nella vita sono di tanti tipi diversi. Come ci si riprende? Quali sono i suggerimenti che puoi dare? Ah, guarda, io direi che la questione più importante è non abbattersi e neanche scoraggiarsi, anche perché poi nessuno ci promette la vittoria, per cui che qua noi possiamo impegnarci, possiamo lavorare, ma non è che abbiamo sempre tutto nelle nostre mani, per cui dobbiamo mettere in conto che le cose possono non andare come abbiamo desiderato, come abbiamo persino previsto. Di fronte a una sconfitta che dispiace, e questo noi dobbiamo sottolinearlo, perché certo che ci dispiace essere, aver perso, no? Ma io direi che ci troviamo davanti a un bivio. Un corno del bivio è quello dell'abbatterci, del dire non ce la farò mai, lo scoraggiarsi e l'invidia, no? Perché sì, poi c'è anche questa componente di invidia rispetto a chi è stato più bravo di noi o a volte anche più fortunato, perché non è solo una questione di bravura. Ma l'altra strada che possiamo prendere è quella del chiederci che cosa è accaduto, no? Uh-huh. Come mai il risultato che ci aspettavamo non è arrivato. E allora è proprio un'occasione, come ci si fa a riprendere? Bisogna ricominciare a lavorare, bisogna guardare ad esempio a chi ha vinto, a chi è andata bene, se c'è qualcuno cui è andata bene, dicevo senza invidia, trattenendoci dalla tentazione dell'invidia, piuttosto per capire ma come ha fatto, no? Se siamo nello sport magari si è allenato di più, oppure aveva una forma migliore, oppure è stato più concentrato, oppure gli è andata anche bene, perché a volte c'è anche lo zampino della fortuna, che non è che è tutto sotto il nostro controllo. Ma io credo che la questione principale sia proprio innanzitutto il pensare: è andata male questa impresa, non sono andato male io, nel senso non sconfitta non coincide con fallimento. Questo credo che sia un punto importante, cioè è andata male quest'opera qua, ma non è che è un giudizio su di me. Allora, se è andata male quest'opera, dovrò rimboccarmi ulteriormente le maniche e capire che cosa devo fare di più, che cosa devo fare meglio, o a volte basta solo anche qualcosa di diverso per portare a casa il risultato che questa volta non è arrivato. Ma io direi no invidia, no battimento, un po' sì all'inizio, però poi bisogna davvero ripartire e rimettersi al lavoro. Ma Luigi, quindi, per uscire da una sconfitta bisogna cercare di farsene una ragione, no? Però un conto è se tu hai perso perché c'era uno più bravo, allora riesci a metabolizzare, a ragionarci su. Un conto è se hai perso, tipo quando perdi i rigori, no? All'ultimo rigore vedi questi calciatori che hanno perso che piangono come dei bambini. Lì come fai a uscire da una sconfitta così dovuta a un ultimo, a un palo, a una traversa, a un dettaglio minimale? Sai, anche in quel caso lì c'è qualcosa che non è andato e... Io direi che dobbiamo partire prima, cioè c'è un'idea prima di calciare quel rigore, l'idea prima di iniziare una gara che è qualcosa che dobbiamo mettere in conto, dobbiamo sapere che può accadere e se accade, sapere che però non dice l'ultima parola su di me, perché dietro al pianto che c'è rispetto a un rigore fallito può esserci certamente il dispiacere, certamente il peso anche della responsabilità che uno pensava di avere o che realmente aveva con quel calcio, ma poi c'è proprio un giudizio su di sé che a quel punto mi crolla il cielo in testa o mi scappa la terra sotto i piedi e mi sembra che crolli tutto. In realtà non crolla niente. Io credo che davvero la chiave di volta sia pensare che è andata male quella cosa lì, quell'impresa lì, quel calcio lì, quella gara, quella proposta ad un amico o un'amica che non è stata accolta. Mm-hmm. E che non, questo non dice l'ultima parola su di me, no? Che quindi possono io che ho la possibilità di riprendermi e devo riprendermi, certo, no? E poi non coincido con la mia impresa. E poi magari a bordo campo serve qualcuno che ricordi tutto ciò anche ai genitori, che a volte sono loro i primi a non accettare una sconfitta, vero? Assolutamente, guarda, sai anche come compare a volte nelle cronache, ma poi la cronaca della vita quotidiana di chiunque accompagni un ragazzo, un figlio, un nipote a una partitella, magari anche del CSI, dove non è in gioco niente, e si vedono delle scene, no, sulle tribune, sugli spalti, che fanno davvero impressione. E qui però c'è un'altra questione, qua l'incapacità dell'accettare che il proprio figlio o la propria figlia sbagli o che il risultato, insomma, non arrivi, è un'incapacità di accettare le proprie sconfitte, è dove l'adulto si aspetta di vincere lui, dove c'è un'identificazione, dove non c'è più distinzione, sì. E dove c'è un adulto che aveva riposto così tanta speranza nella riuscita di un altro che quando l'altro non riesce, non riesce lui. E allora ne vediamo del bello. Io sono Zero, il Castoro 2015, leggetevi questo romanzo perché è davvero molto bello. Luigi Ballerini, grazie davvero per aver giocato con noi. Ciao, grazie. Grazie a voi. Ciao, buona estate. Non batter la fiaccola. Curiosità a 5 cerchi. Marla Runyan non vede il traguardo, non vede le avversarie, riesce appena a percepire i contorni della sua corsia, sì, perché pian piano, giorno dopo giorno, sta perdendo la vista per colpa del morbo di Stargardt, una malattia degli occhi che porta gradualmente a vedere sempre meno. Eppure, alle Olimpiadi di Sydney del 2000, Marla riesce a realizzare il suo sogno. Quello di poter partecipare fra gli atleti normodotati, correndo per la squadra del mezzo fondo. Quando le hanno chiesto che cosa avesse provato, la sua risposta è stata: correre a un'Olimpiade è niente. È distinguere fra le pietanze e i contorni al self-service del villaggio, il mio dramma quotidiano. Sì, una gara anche in mensa. Non batter la fiaccola, ma ci sono ancora altre storie di sconfitta. Telmo Piovani. Ma allora, abbiamo visto adesso che c'è sconfitta e sconfitta. Secondo me quella da cui è più difficile uscire è quella del campione che arriva quasi al punto più alto del podio ma non ci arriva mai. Mm-hmm. Sono gli eterni secondi. C'è una storia sugli eterni secondi, che tra l'altro è uno di quegli altri elementi che tiene insieme lo sport e la scienza, perché anche nella scienza ci sono storie molto belle di grandi scienziati che sono arrivati a fare una grande scoperta un attimo dopo che l'ha fatta qualcun altro. Per esempio Alfred Wallace è un famosissimo grande naturalista inglese che ha capito la teoria dell'evoluzione per selezione naturale dopo Darwin. Nessuno si ricorda più di Wallace, tutti si ricordano di Darwin, lui c'era arrivato un attimo dopo. Nello sport esiste addirittura un nome che si chiama nichefobia, cioè paura della vittoria. Ci sono alcuni atleti che arrivano proprio fino all'ultimo miglio ma non riescono a vincere mai, arrivare mai in cima, un po' perché gli manca quella che qualcuno chiama la cattiveria, cioè proprio la cattiveria finale per vincere, e un po' anche per sfortuna. Per esempio, ci sono stati grandissimi atleti che avrebbero vinto tutto, ma proprio nel loro stesso periodo è arrivato il marziano, cioè proprio il campione assolutamente imbattibile. Per esempio il ciclismo è pieno di storie di eterni secondi bravissimi che non sono mai riusciti ad arrivare in fondo, e anche le Olimpiadi hanno avuto campioni eccelsi. Per esempio nell'atletica, se pensi a Tyson Gay, uno che ha fatto i 100 metri velocissimo, veramente un velocista straordinario, ma non ha mai vinto l'oro perché ha avuto prima Asafa Powell davanti e poi Usain Bolt, cioè due marziani, e nessuno probabilmente si ricorda di lui come degli altri. Altri invece, anche questo è interessante, eterni secondi, non riescono a reggere lo stress della gara, cioè negli allenamenti fanno dei tempi fantastici, ma quando poi sono davanti al pubblico lì alle Olimpiadi non riescono ad arrivare fino all'ultimo, all'ultimo stadio, all'ultimo, al punto più alto. E questo ti fa capire ancora una volta, l'abbiamo già detto in tante altre parole chiave, che lo sport è qualcosa di fisico, ma anche qualcosa di terribilmente psicologico e mentale. Sì, la testa gioca un ruolo fondamentale. Al momento ancora della scienza, invece, della scienza portata da Andrea Vico. Scienziati, esperimenti a cinque cerchi. Divulgatore scientifico dell'associazione TuScience, www.tuscience.it, per conoscere tutte le attività proposte, Andrea Vico è quello che va per noi a cercare la scienza dietro alle Olimpiadi. Ciao Andrea, ben ritrovato. Ciao. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Cosa andiamo a vedere, a scoprire oggi? No, lasciamo l'atletica, che è sicuramente la regina degli sport olimpici, e parliamo di palle, palloni, palline, cioè tutti gli sport in cui lo strumento con cui l'atleta, spesso in squadra, si cimenta e dimostra la sua bravura è una palla. Sì. Quindi abbiamo il volley, abbiamo ovviamente il nostro amatissimo calcio, abbiamo il basket, abbiamo anche gli sport più piccoli, tra virgolette, minori. Qui c'è da un lato una storia dell'evoluzione dei materiali, perché pensate a un pallone da rugby che all'inizio era fatto con una vescica di maiale piena di paglia e una cucitura alla buona, da cui appunto deriva anche questa forma ovale che lo contraddistingue dagli altri sport con la palla, a tutti i materiali sintetici che vengono via via usati e si specializzano, perché il tipo di rimbalzo o anche la parte del corpo con cui un pallone viene colpito, quindi la pallavolo piuttosto che la racchetta da tennis, piuttosto che la mazza da golf, piuttosto che il piede per il calcio, chiaramente pretende un materiale di volta in volta diverso. Sì. Che è soprattutto anche una struttura fisica della palla, della sfera, perché deve ricevere la forza che viene impressa dall'atleta, fare un certo percorso, rimbalzare piuttosto che no, e ottenere un risultato, un traguardo, che spesso è anche o di precisione, oppure diciamo che deve mettere in difficoltà l'avversario, metti nel tennis piuttosto che nella pallavolo. Quindi c'è tutto un percorso di materiali, anche qui, come diciamo la domenica scorsa, i materiali più naturali, il cuoio, il cotone, alcune parti degli animali come la vescica del maiale per il pallone da rugby sono state abbandonate e sostituite da materiali di sintesi. Però la scienza in questo caso è più legata alla aerodinamica, perché abbiamo un solido fatto con materiali diversi, di forme diversi, che deve muoversi in un fluido, e questo significa scomodare una dozzina di scienziati diversi. Se noi andiamo a osservare le palle, queste sfere come sono fatte, notiamo che ogni sport ha bisogno di ridisegnare, ripensare la sfera secondo l'obiettivo che va raggiunto. L'esempio più eclatante, non so se può essere capitato a tutti di prendere in mano una pallina da golf e la superficie è bucherellata, certo, ha delle fossette, e queste sono necessarie perché la pallina riceva un colpo molto forte, faccia una lunga traiettoria e possa atterrare con precisione laddove l'atleta l'ha indirizzata. Se la pallina fosse completamente liscia, ci sarebbe molti problemi di portanza, di direzione, di stabilità nel volo. Invece queste fossette permettono all'impatto con l'aria, cioè in quella porzione di superficie della sfera che va a impattare l'aria, che l'aria scivoli via in maniera diversa, e soprattutto ai lati, anche se improprio parlare di lato, parlando di una sfera, quindi laddove l'aria scivola e laddove l'aria in qualche modo non impatta, quindi nella parte retrostante, nella porzione retrostante della pallina, ci sono una serie di meccanismi di portanza e di stabilizzazione della traiettoria che sono fondamentali. Anche qui la storia, per esempio, come diciamo di Fosbury la settimana scorsa, è legata a un tipo che sì, prima si giocava con delle palline lisce, e a un certo punto si è notato che le palline ammaccate volavano meglio, andavano più lontano, e allora anche qui quello che era uno standard tecnologico, la pallina perfettamente liscia, viene messo in discussione da un caso e da qualcuno che nota una variazione. E quindi da lì si è cominciato a modificare le palline andando a disegnare la superficie in un modo opportuno. Okay. Lo stesso vale poi per le cuciture di tutti gli altri palloni, anche qui tornando a rugby, la cucitura che è da un lato della palla ovale serve da un lato ovviamente al lanciatore per avere una presa migliore, però se si osserva in dettaglio come vola la palla, questa cucitura è anche un elemento di stabilità, perché sì, la palla ruota lungo il suo asse più lungo e quindi permette a chi lancia la palla e vuole ottenere un certo effetto, una certa direzione, di, conoscendo un po' di fisica, un po' di aerodinamica, di raggiungere e quindi segnare il proprio punto. Grazie come sempre ad Andrea Vico per le sue preziose indicazioni scientifiche. Ciao Andrea! A presto, buona Ciao. Domenica! Adesso ci fermiamo, il traffico poi ancora qua con Terra in Vista. Terra in Vista. Eccoci qui, è arrivato il momento della terza domanda alla quale dare una risposta. Ascoltiamola insieme. Yuhu! Meglio vincere l'argento o il bronzo? In questa puntata dedicata alla sconfitta parliamo di vittoria, però non quando è proprio la vittoria, insomma ci sono anche dei gradini più bassi, però meglio l'argento o il bronzo? Una quasi sconfitta, una quasi vittoria, vediamo. E per avere una bella suggestione abbiamo invitato un grande ospite, ascoltiamolo insieme in una prestigiosissima e indimenticabile vittoria. Vola, vola! Vola, vola, vola verso il podio, vola verso il podio Yuri Chechi, vola! Yuri ce l'ha fatta, questo è un esercizio perfetto, perfetto, perfetto, è perfetto, è un esercizio da oro, è un esercizio da oro. 9,837, è medaglia d'oro, è oro, 9,887. È la fine veramente di un inseguimento durato troppo tempo, 4 anni. È la medaglia d'oro più bella di queste Olimpiadi per l'Italia, perché è costruita con emozione, con pazienza, con tenacia, con volontà, con grinta. E c'è tutto Yuri Chechi in queste emozioni. La medaglia più bella, la medaglia perfetta, la medaglia di Yuri Chechi. Ciao Yuri! Ciao a tutti, insomma. Grazie di avermi fatto rivivere, anche se solo con la voce di Andrea Fusco, quel momento per me meraviglioso, emozionante, direi unico, no? Quindi grazie. Quanti brividi. Tra l'altro un po' contrastanti rispetto alla puntata di oggi. Stiamo cercando di spiegare ai nostri giovani ascoltatori il valore della sconfitta. Partendo da una medaglia d'oro sembra paradossale. Tu il sapore della sconfitta quando lo hai assaggiato? Ah, diverse volte. Ma è assolutamente inevitabile che durante una carriera sportiva, ma non solo nello sport, nella vita, fammi dire, perdi prima o poi, perdi sicuramente. L'importante è capire che la sconfitta certe volte non è molto bella e fare il possibile con grande determinazione, volontà, nel rispetto assoluto delle regole, cercare di vincere. E sì, questo credo che sia molto, molto importante. Però anch'io ho assaporato la sconfitta e devo dire che non mi è piaciuta. Ma e quelle volte che eri lì per andare alle Olimpiadi, poi avevi gravi infortuni, come è successo, è un sapore di sconfitta quello o è altro? Beh sì, è sconfitta un po' altro, perché sai, quando perdi perché hai fatto tu un errore, quando la sconfitta dipende dalle tue azioni, vabbè, ne prendi atto e cerchi appunto di lavorare perché non accada. Quando invece la sconfitta dipende da un fattore esterno, imponderabile, il destino, io insomma sono abbastanza fatalista, però ho sempre pensato che, come recita una poesia bellissima che ogni tanto mi leggo in inglese, che dice: io sono il padrone del mio destino, il capitano della mia anima, e devi essere tu in qualche modo a indirizzarlo. Ma certe volte quando un tendine si spacca non dipende da te e quindi devi accettarlo e anche lì però affrontare questa difficoltà e cercare di risolverla, insomma, quindi dipende se la sconfitta è conseguente alle tue azioni o è conseguente a una cosa che non puoi tu gestire. Ah, Yuri, poi però ci sono delle medaglie di bronzo, quindi dove arrivi terzo, che però sono delle grandi vittorie, come vincere un oro, no? Ci vuoi raccontare ai ragazzi cosa ti ha portato alla fine a vincere quell'ultimo bronzo? Guarda, è una storia bella, importante, ma in poche parole ti posso dire che io avevo proprio bisogno di finire in maniera diversa da quella di un infortunio che mi preclude la possibilità di partecipare alle Olimpiadi. Era successo tanti anni fa, nel 92, ancora nel 2000. Poi un infortunio ancora più grave mi avrebbe teoricamente precluso la possibilità di fare ancora una gara importante. E invece poi nel 2004 una sfida quasi coraggiosa, ecco, mi permetto di dire, vinta più dall'uomo, perché tanto l'atleta aveva già vinto le Olimpiadi di Atlanta e non avevo più niente da chiedere. Mm-hmm. Però all'uomo Yurikei che qualcosa ancora avevo da chiedere, e la risposta è stata da Atene, che ho vinto un bronzo che per tanti motivi, l'età, per come è arrivato, per l'infortunio al braccio che, ripeto, a detta anche dei luminari dell'ortopedia non poteva permettermi di affrontare quella preparazione e quella gara, invece ho vinto un bronzo che vale quanto un oro, perché mi ha consentito di sentirmi molto più forte, ripeto, più come uomo che come atleta, e nella vita conta più l'uomo dell'atleta, insomma. Yuri, siamo partiti da una domanda: è meglio vincere un argento o è meglio vincere un bronzo? Ti rispondo molto semplicemente: io fra europei, mondiali e olimpiadi, che diciamo sono le tre gare a livello di tutti gli sport, ma chiaramente la ginnastica più importante, ho vinto circa 15 medaglie, sì, fra, quindi europei, mondiali e olimpiadi. Non ho mai vinto una medaglia d'argento. Ah. E quindi o oro o bronzo. La mia risposta quindi è no, a parte gli scherzi, è così. Io credo però che, per rispondere alla domanda meravigliosa e intelligente di quel bambino, devo dire che in alcune gare obiettivamente per me è quasi meglio davvero il bronzo dell'argento. Sì, eh? Sì, devo dirti la verità. Tipo gli europei e i mondiali, no? Uh-huh. Le Olimpiadi è tutta un'altra cosa. Le Olimpiadi, anche l'argento non va bene di più, perché le Olimpiadi, qualsiasi colore, qualsiasi medaglia è una vittoria. È una caratteristica che ha solo quello sport, che ha solo, scusate, quella gara, quella competizione, ma l'argento alle Olimpiadi non è una sconfitta, non è che non hai preso l'oro, hai vinto l'argento. Ai mondiali, in alcune specialità, tipo la mia, se vinci l'argento è perché hai perso l'oro. E quindi questo dispiace un po' di più. Che bello, poi insomma la sincerità di Yuri è fantastica, in gara, ma come atleta, come persona, come abbiamo potuto avere dimostrazione un sacco di volte. Grazie davvero, grazie, Yuri. Buona, grazie a voi. Buona grazie, estate. Buona per estate. Quello che raccontate, perché è molto bello e anche molto utile per i nostri giovani. Buona estate anche a voi. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie. E queste sono le cose che abbiamo imparato nella puntata di oggi. Che alle Olimpiadi, dietro le grandi sconfitte, a volte ci sono delle belle vittorie. Poi abbiamo imparato che olimpismo è correttezza e lealtà. La vera sconfitta è non stare alle regole. Poi abbiamo imparato che nel golf, per fare buca, devi bucherellare la pallina. Abbiamo imparato che gli animali sono campioni del mondo di uno sport che non esiste, lo sputo. Ma soprattutto abbiamo imparato che la sconfitta non è un giudizio universale, ma un nuovo inizio. Questa è Terra in Vista, le Olimpiadi spiegate a mio figlio, un programma scritto con Paola Manduca, in assistenza tecnica oggi Peter Bescapè, Massimiliano Lollis invece in redazione. Come vi abbiamo già detto, Terra in Vista continua, le Olimpiadi sono finite, il nostro programma no, abbiamo ancora tante altre parole da raccontarvi, e vi ricordo anche che sul sito radio24.it potete scaricare il podcast e trovare tutti i contributi extra come le nostre rubriche. Telmo, è stato bello oggi perdere. Sì, decisamente. Una grande sconfitta. Grazie a voi per essere stati con noi. Questa è Terra in Vista. Mantra del cavaliere. E cavalca, cavaliere. Le tue fiabe sono vere, le tue piaghe sono finte, le tue guerre sono vinte, le tue stelle sono terse, le tue strade sono perse, ma anche e cavalca, cavaliere, le tue piaghe sono vere, le tue fiabe sono finte, le tue guerre sono vinte, le tue strade sono terse, le tue stelle sono perse. E ancora e cavalca, cavaliere, le tue piaghe sono vere, le tue fiabe sono finte, le tue stelle sono vinte, le tue strade sono terse, le tue guerre sono perse. E così ancora.